Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, le vacanze si avvicinano, anche quest'estate uno degli sport nazionali sicuramente sarà misurare la crisi o la non crisi in termini di numero di ombrelloni occupati o di tavoli al ristorante liberi. Insomma, l'Italia è un paese ricco o no? E soprattutto come si colloca questo periodo nel ciclo storico dell'economia italiana? Risponde un libro di Emanuele Felice, uno storico dell'economia a Barcellona che noi avevamo già sentito in occasione del l'uscita di un suo libro sul Mezzogiorno, questa volta scritto Ascesa e declino, storia economica d'Italia. È pubblicato dal Mulino, 386 pagine, 18 euro. Come vi sentite, il titolo è ambizioso, storia d'Italia dal punto di vista naturalmente dell'economia, il progetto è ambizioso, ma condotto con lo scopo di interessare tutti, anche grazie alle dimensioni relativamente contenute del libro rispetto al periodo che prende in considerazione, che infatti risale addirittura all'impero romano. E il libro non rinuncia quindi a un'analisi piuttosto lunga nel tempo, proprio per collocare la crisi attuale nell'ambito di cicli, di crisi, di riprese che hanno caratterizzato sempre storicamente l'economia italiana. Ci sono sempre stati alti e bassi, crisi e rinascite, speranze di riforme e paralisi conservatrici. Emanuele Felice segnala tre età attraversate dall'Italia: l'età dell'oro, quella del recupero e del miracolo postbellico, l'età dell'argento che e la stabilizzazione seguita alla grande crisi degli anni 70, sempre del Novecento, e poi l'età del bronzo, segnata dal passaggio alla Seconda Repubblica e all'ingresso nell'euro, traguardo dopo il quale l'Italia smise di crescere. E allora sentiamo l'autore, in particolare sulle prospettive contemporanee. Buonasera a Emanuele Felice. Salve, buonasera. Emanuele Felice, all'inizio del libro lei si è divertito a calcolare il PIL pro capite nel 300 avanti Cristo e nel 14 dopo Cristo. Che cosa ci dicono questi numeri? L'Italia in fondo non era malmessa in quegli anni. Sì, no, in realtà non l'ho calcolato io quel PIL pro capite, l'ha calcolato Madison. Sì, no, quei numeri ci dicono che l'Italia in epoca romana era certamente l'economia più ricca dell'impero romano, era il cuore dell'impero romano, almeno fino al III secolo. E poi cosa è successo? E poi è successo un primo declino dell'Italia che si è verificato perché Roma non è stata più il centro dell'impero, c'è stato uno spostamento del centro verso l'est, oriente, fondando una nuova Roma e quindi l'Italia ha perso questa centralità. L'Occidente romano tutto ha perso questa una ricchezza demografica ed economica che aveva e si è avuto un primo lungo declino dell'impero romano d'Occidente e innanzitutto dell'Italia. Quando si parla del crollo dell'impero romano d'Occidente, dell'arrivo dei barbari, si parla innanzitutto del crollo dell'Italia. Ecco, lei si è svolto per alcuni secoli. In questo crollo, in queste riprese, lei dedica molta attenzione, sottolinea molto l'importanza del tema delle istituzioni, dell'assetto socio-istituzionale, come scrive lei, che è essenziale per capire appunto la direzione di questa altalena fra alti e bassi nell'economia italiana. Ecco, che cosa ci rivela questa analisi sull'assetto istituzionale? Le istituzioni che cosa hanno determinato? In realtà, anche se vogliamo guardare il lunghissimo periodo, l'impero romano d'Occidente crolla perché aveva, per vari motivi, ma forse il principale, perché aveva istituzioni meno solide dell'impero romano d'Oriente, cioè non aveva una corte imperiale che faceva le funzioni di una burocrazia altamente specializzata e che controllava l'esercito, dominava i vari capi militari. Invece l'impero romano d'Occidente, senza questo corpo ministeriale, finisce in mano a diversi generali che si contendono il potere, che poi sono anche barbari, e finisce in quel modo. Questo se volevo guardare il lunghissimo periodo. Il mio libro si concentra soprattutto sulla storia economica dell'Italia dall'unità ad oggi e questa è una storia di istituzioni di uno Stato nuovo che si crea, che sono inizialmente abbastanza elitarie e timorose quindi dello sviluppo economico, perché lo sviluppo economico può portare trasformazioni che potrebbero mettere in gioco i loro interessi. E i primi 30 anni del nuovo regno italiano sono così, sono 30 anni in cui l'Italia cresce molto poco e non riesce a modernizzare. Poi tra la fine dell'Ottocento e soprattutto i 15 anni precedenti la Grande Guerra avviene una modernizzazione importante, politico-istituzionale ed economica che avviene il primo decollo industriale dell'Italia. Poi c'è la parentesi fascista che dopo gli anni 20, in cui le situazioni vengono ancora gestite abbastanza bene, negli anni 30 porta a un regresso dell'Italia, dell'economia italiana, perché si fanno delle scelte sbagliate, fino al fallimento dell'alleanza con Hitler. E poi si apre una nuova Italia democratica che di nuovo è inclusiva e di nuovo accetta la sfida della democratizzazione in modo pieno. E questo sistema inizia a incepparsi, qualche segno c'è già negli anni 60, ma si inceppa chiaramente negli anni 70. Negli anni 70 il sistema democratico italiano non riesce a mettere in campo un'alternanza, la quale è una, se ben gestita, è una linfa vitale per il funzionamento delle istituzioni stesse, e si avvita in una serie di crisi attraverso le quali passa un'ampia corruzione, passano le vicende degli ultimi 20 anni che sono all'origine della crisi economica anche dell'Italia. Infatti sono, lei... sono una parte, non sono l'unica, ma sono una parte centrale. Infatti lei sottolinea come l'impalcatura istituzionale dell'Italia repubblicana non sia in grado di reggere le sfide che questa economia dovrebbe affrontare. Sì, e queste sfide si palesano negli anni 70. Con gli shock petroliferi degli anni 70, l'inflazione, che per esempio mettono in crisi le scelte che erano state fatte per il sud Italia, che pure stavano facendo sviluppare il mezzogiorno. E a queste scelte il sistema politico ed imprenditoriale italiano, io parlo di classi dirigenti politico-imprenditoriali, risponde scegliendo le soluzioni più facili, cioè creando inflazione, creando debito e scommettendo su un sistema produttivo che compete nei settori a più basso valore aggiunto, attraverso la svalutazione del cambio. Perché? Perché è più facile competere in quel modo, perché si richiedono meno investimenti nell'innovazione, meno un sistema amministrativo meno potente per supportare le imprese, e quindi si fanno queste scelte di corto respiro che funzionano fin quando non arrivano i vincoli europei, fin quando si può fare debito e fin quando non arriva la competizione della grande Asia emergente in quegli stessi settori a basso valore aggiunto cui l'Italia si era andata rilocalizzando. E quando arrivano queste cose, da un lato il vincolo europeo, la grande sfida europea, dall'altro l'Asia che sorge, il sistema produttivo italiano entra in crisi e i fondamenti macroeconomici dell'Italia entrano in crisi, e questa crisi inizia per l'Italia nel 1992-93. Dopo, negli anni 90, si continua un po' a crescere perché la lira si svaluta, quindi si gioca ancora questa partita della svalutazione della lira, ma anche perché negli anni 90 c'è una classe dirigente che a un certo punto si dà una scossa e cerca di rinnovare l'Italia. Però quella stagione di rinnovamento è durata troppo poco, e quindi poi si ritorna verso questo modello di specializzazione che però a quel punto con l'euro forte non è più possibile. E lei scrive: messa così la storia potrebbe sembrare senza speranza, potrebbe sembrare, quindi lei coltiva ancora qualche speranza sull'Italia? È molto difficile, perché sì, le speranze si coltivano sempre, però l'Italia oggi rispetto agli altri paesi avanzati, due parametri sballati principalmente. Uno è il funzionamento dell'amministrazione, il sistema burocratico-amministrativo, giustizia compresa. Questo è molto lento e molto complesso. Essendo complesso e lento, favorisce una corruzione diffusa e favorisce una sfiducia dei cittadini verso il bene pubblico. Di questo è da riformare. L'altro sistema qui l'Italia va meno bene degli altri paesi avanzati è il sistema dell'istruzione e dell'innovazione. Questa è un'altra grande area da riformare, che poi è legato anche all'innovazione che fanno le imprese. Ora, entrambe queste due direttrici strategiche delle grandi riforme sono piuttosto complicate da farsi e andrebbero gestite da un ceto politico e da una classe dirigente all'altezza di confrontarsi con i problemi della ricerca scientifica mondiale, con i problemi, con il ceto burocratico che ha il controllo della macchina amministrativa, operativa e che funziona secondo delle traiettorie normative, burocratico-normative, molto attente alla forma, però molto difficile da comprendere per un estraneo, per un politico estraneo che voglia riformare. Quindi sono riforme difficili che richiedono più che l'uomo solo al comando, o un leader, che richiedono un'intera nuova classe dirigente. Tante persone che riescano nei singoli comparti con una visione di lungo periodo a realizzare queste riforme. Grazie. E questo si può realizzare, ma si può anche, cioè non è facile, bisogna avere consapevolezza che la sfida è questa. Grazie a Emanuele Felice, autore di Ascesa e Declino, Storia economica d'Italia. Buona serata. Grazie a voi, buona grazie professore, buonasera. E sulla crisi segnalo altri due libri. Il primo è di Giancarlo Bertocco, che è docente all'Università di Insubria di Varese. La crisi e la responsabilità degli economisti, pubblicato da Francesco Brioschi, 316 pagine, 18 euro. Perché gli economisti non hanno capito cosa stava per succedere prima che la crisi scoppiasse? Perché non erano abituati all'idea che le crisi potessero arrivare, risponde il nostro autore, che infatti scrive che il comportamento degli economisti è stato simile a quello dei sismologi, che durante un periodo tranquillo arrivano a concludere che i terremoti non esistono. Le crisi economiche invece sono il prodotto delle decisioni dei governi, delle istituzioni economiche, delle imprese, delle famiglie, quindi sono una manifestazione delle dinamiche sociali, conclude l'autore. Quindi sì, le crisi possono arrivare. Le crisi però non sono affatto inevitabili, e qui abbiamo una critica alla economia mainstream, come la chiama l'autore, alla corrente dominante che considera le crisi come fenomeni esogeni esterni rispetto all'economia di mercato. Bertocco qui ci offre anche un'alternativa basata piuttosto su l'insegnamento di Keynes, con alcune ricette finali ispirate all'aspirazione a una vita buona, come la chiama lui, come la chiama l'autore, cioè alla produzione di benessere e non soltanto di beni. L'altro libro è di uno spagnolo, José Antonio de Aguirre, economista, si intitola La lezione della crisi economica, quello che è stato e quello che verrà, è pubblicato da Rubbettino, 178 pagine, 13 euro, tradotto da Esther Grifone e presentato da Lorenzo Infantino. L'economista appartiene a un'altra scuola, più fiducioso forse nel mercato. Anche per lui però nulla di inevitabile nelle crisi economiche, piuttosto queste sono il frutto di errori, soprattutto nell'assetto istituzionale. E ce lo spiega De Aguirre con un linguaggio chiaro, con capitoli brevi che affrontano temi specifici, per esempio proprio gli errori macroeconomici che hanno visto crollare il sistema costruito negli anni precedenti. E a questo punto una breve interruzione, ci sentiamo fra pochi minuti. Chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva del cane. Che cos'è, Angelo? Dice la parola stessa. Il mondo dalla prospettiva del cane. Ci dobbiamo chiedere se il nostro cane è felice. Come facciamo? Dobbiamo conoscerlo. Quindi parleremo di alimentazione, della dieta barf, di psicologia, di telepatia con gli animali, un sacco di argomenti. Fantastico. Tutti i sabati alle 15 e tutte le domeniche alle 10 del mattino. Vi aspettiamo, Rosita Celentano e Angelo Vaira su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Dedichiamo adesso questa seconda sezione della nostra trasmissione alla musica e quindi parliamo di alcuni libri che verranno introdotti dai brani relativi. I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Questi naturalmente erano i Coldplay, il celebre gruppo inglese che dà il titolo al libro di Tommaso Labranca, pubblicato da Spelling e Kupfer, 198 pagine, 17,90 euro. Non cambieremo mai il sottotitolo del libro, che parte dai timori che si sono diffusi alla fine del 2014 che il gruppo si possa sciogliere. Il futuro della band per la verità non è affatto chiaro, perché in occasione dell'uscita del nuovo CD A Head Full of Dreams il leader del gruppo, Chris Martin, disse una frase un po' sibillina: A Head Full of Dreams è la settima cosa che facciamo e ci sentiamo un po' come se fosse l'ultimo libro della saga di Harry Potter. Con questo non voglio dire, aggiunse, che non ci sarà più niente, ma questo è il completamento di qualcosa. Cosa voleva dire? Chi lo sa? Vedremo in futuro. Del resto non è la prima volta. Già nel 2010 si era mormorato che potesse succedere la stessa cosa, cioè che il gruppo si potesse sciogliere. I quattro dei Coldplay, che sono Chris Martin, fra l'altro quest'ultimo è laureato a pieni voti in greco e in latino. Poi Guy, Johnny e Will cominciarono a suonare insieme nel 1998 e l'8 gennaio di quell'anno è considerato la data ufficiale della nascita della band, perché in quella data fu raggiunta la composizione definitiva. E qui nel libro troviamo le origini del gruppo, le ambizioni, la passione dei tre, poi diventati quattro, e la carriera non semplice, visto che, come scrive l'autore, i Coldplay detengono un poco invidiabile record. Sono la band più ingiustamente attaccata e insultata da parte della critica musicale anglosassone. Quale sarebbe la ragione? Il fatto che non hanno quell'aria da maledetti che hanno molto spesso altre band. Il giornalista, spiega l'autore, incontra questi quattro ragazzi vestiti come lui, che parlano come lui, rispondono alle domande seduti nella stanzetta relax dello studio di registrazione. Questo al giornalista dà fastidio, perché quella spontaneità cordiale gli sembra più finta dell'antipatica paccottiglia rock and roll. Tra l'altro si ricorda qui l'impegno civile e sociale del gruppo, soprattutto in maniera ambientale, che ha condotto per esempio Chris Martin a una decisione che ha sorpreso molti dei suoi fan, quello di votare alle ultime elezioni in Inghilterra per il conservatore Cameron. Well, they're still racing out at the trestles, but that blood had never burned in her veins. Now here she's got a house up. Un altro gigante del rock è Bruce Springsteen, le cui più belle interviste sono state raccolte da Christopher Phillips, che è l'editore di Backstreets, la rivista dedicata interamente al cantante, e Louis Mazur, che è invece un docente di studi americani. Il libro si intitola A proposito di un sogno, è pubblicato da Mondadori, 504 pagine, 25 euro, ed è tradotto da Dario Ferrari. Si parte qui dal 1973 con la prima intervista al cantante, di poco successiva all'uscita del primo album. Poi naturalmente il successo aumenta e con esso la fama, e fama e successo sono punteggiate anche naturalmente da tante interviste, spesso radiofoniche e televisive, che qui vengono trascritte per la prima volta, ed emerge quindi un quadro completo dell'autore che, dicono i curatori, ha abbracciato e ampliato il suo ruolo nella cultura americana e ha accettato la sfida di essere la voce della coscienza e dell'impegno civile, senza perdere di vista la gioia essenziale di suonare il rock and roll dal vivo a tutto volume. E anche di Springsteen emerge qua l'attivismo politico che si è manifestato soprattutto a partire dal 2004. Sentiamo dal libro come Springsteen rispose nel 2013 a Robert Santelli, che gli chiedeva come conciliasse il successo planetario che aveva avuto con le origini operaie della sua famiglia. La gente mi fa sempre questa domanda, come se esistesse qualche specie di trucco. Ma sul serio, è una cosa che mi è venuta naturale fin dall'inizio. Guardavo tutti i miei eroi, quelli che erano venuti prima di me, e potevo vedere come molti di loro si fossero lasciati distrarre dal successo, si fossero smarriti nella vita frastornante in cui il successo ti proietta. Quindi avevo ben chiaro quale fosse la fonte della mia forza. La mia forza scaturiva dai ricordi e dall'esperienza, e affondava le sue radici nell'ambiente in cui ero vissuto, nella dimensione locale, nel sentirsi parte di un determinato luogo o di una determinata comunità di persone. Sono questi i veri elementi che spingono il mio motore, notte dopo notte, concerto dopo concerto. Non perdere di vista tutto questo per me è stato sempre un naturale istinto di sopravvivenza. Non potevo non farlo. Per cui diffidavo di qualsiasi cosa minacciasse di allontanarmene. Ciò non significa che non mi sia goduto la vita o tutti i privilegi che il successo mi ha concesso. Significa solo che insieme alla E Street Band sono sempre rimasto concentrato essenzialmente su tutti quegli elementi. Ce li siamo portati dietro anno dopo anno. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see. E a un certo punto Springsteen evoca la sua ammirazione per Frank Sinatra, di cui abbiamo ascoltato la voce inconfondibile. A Frank Sinatra dedica una biografia Francesco Meli, che anch'egli è studioso di studi americani. Si intitola Frank Sinatra semplicemente migliore, pubblicato da Odoia, 272 pagine, 18 euro. E qui troviamo proprio il giudizio che Springsteen diede su Sinatra. Ne parlò come un simbolo riconoscibile come la Statua della Libertà. Era il XX secolo, era moderno e complesso, aveva swing e aveva una personalità inquieta. La sua voce esprimeva un senso ribaldo di libertà e la triste consapevolezza di come va il mondo. Ogni sua canzone sembrava avere una minaccia. E se non ti piace, eccoti un cazzotto. Era un boss, era sempre Frank Sinatra. Non vedremo mai più niente di simile. Così Springsteen. Sinatra era nato 100 anni fa, nel dicembre del 1915, in un piccolo borgo prospiciente Manhattan, quindi sulla riva sbagliata dell'Hudson, come scrive l'autore, e proveniva, come noto, da una famiglia di origini italiane, il padre siciliano, la madre ligure. E questo aspetto dei legami di Sinatra, che hanno sempre fatto discutere con le comunità italo-americane, anche quelle meno impeccabili, viene anch'esso affrontato nel libro. Si tratta di legami che in alcuni momenti fecero molto discutere, soprattutto quando Sinatra, allora al vertice del successo, appoggiò con molta foga il candidato John Kennedy alla Casa Bianca, salvo poi ricevere un grande affronto proprio da Kennedy, pare per istigazione della moglie che non amava Sinatra. Una umiliazione che toccò Sinatra nel punto debole della sua personalità, e cioè il rispetto che pretendeva dal resto del mondo, tanto che poi Sinatra cambiò orientamenti politici e appoggiò alle elezioni successive Ronald Reagan. Quanto a quei legami compromettenti, Meli scrive che Sinatra sapeva bene che certe amicizie pericolose non potevano essere respinte. Non era uno di loro, ma li capiva e loro lo capivano. Era cresciuto con loro. Con fama e successo si era fatto anche molti nemici, soprattutto perché non sapeva tenere la bocca chiusa e aveva quindi bisogno di protezione, di favori che avrebbe poi dovuto ricambiare. Ed era molto semplice contraccambiare. Abbiamo cambiato genere con un altro gigante, questo dell'esecuzione, Claudio Abbado, che troviamo nel libro di Giuseppina Manin, Nel giardino della musica. Claudio Abbado, La vita, l'arte e l'impegno, questo è pubblicato da Guanda, 176 pagine, 14 euro. Nel libro troviamo descritti 15 momenti decisivi nella carriera prodigiosa di Claudio Abbado, che è l'autrice, che è la critica musicale del Corriere della Sera, ha a lungo frequentato, traendo molti spunti di riflessione sul personaggio, visto anche al di fuori dei maggiori teatri del mondo, nei luoghi a lui cari del relax e della riflessione. Di Abbado quindi Manin ci offre un quadro completo, ricorda la grandezza artistica, sottolinea l'impegno politico che fu pure importante per questo artista, l'impegno culturale che si espresse soprattutto nel volere un rinnovamento del panorama musicale italiano, per il quale Abbado ha svolto un ruolo fondamentale, come ci dicono queste righe. Nel 68 Claudio Abbado dà il via alla Scala a una rivoluzione musicale destinata a sovvertire le pigre regole dell'ascolto di intrattenimento. Appassionato della musica del Novecento, amico di Luigi Nono, il giovane maestro apre una sua politica di rinnovamento del repertorio, introducendo via via autori inediti per la Scala, da Mahler a Berg, da Stravinsky a Schönberg o a Stockhausen. «Sono stati anni intensi e curiosi», raccontava. «Un periodo molto creativo per la Scala, ma anche per Milano, a quei tempi vera fucina di idee e di intelletti». Schivo e poco propenso a prese di posizione plateali, Abbado non si sottrae allo spirito dei tempi e, ben consapevole del subbuglio che può creare in una platea in gran parte conservatrice, mette in atto una sua rivoluzione musicale. Sperimentazioni audaci, né facili né indolori. Anche parte della critica aveva da ridire. Fischi e contestazioni ce ne sono stati, ma gli applausi via via crescevano. Via via il pubblico cambiava, più giovane, più normale. La nascita della filarmonica, l'esperienza di portare la musica nelle fabbriche, all'Ansaldo, alla Breda, alla Necchi, ha aperto a nuovi ascolti, ha smosso desideri di conoscere. Così, ricorda ancora, quando Luigi Nono varcò la soglia del Piermarini con la prima di «Como una ola de fuerza y luz», il primo a restare stupito fu lui stesso. In una lettera indirizzata ad Abbado, scriveva nel suo idioma italo-veneziano: «Ti avevi ragione, se può smuover tutto, perfino la Scala, ostia, e la smuoveremo insieme». E a proposito di musica del Novecento, vi segnalo il libro di un fisico, nonché musicologo, Ernesto Napolitano, Debussy e la bellezza del Novecento, La mer et les images, è pubblicato da EDT, 224 pagine, 22 euro. Napolitano colloca l'opera di Debussy all'interno dello strabiliante crogiolo di innovazione che fu in tutti i campi il Novecento, e spiega che Debussy non fu certo soltanto l'espressione della corrispondenza in musica con l'impressionismo e con il simbolismo. moderno. Anzi, secondo l'autore, la musica di Debussy da altri non proviene che da se stessi. Non ci sono precedenti, non si intravedono modelli. Musicalmente l'indipendenza di Debussy, anche dalle fonti francesi, se non vogliamo attribuire un peso maggiore di quanto meriti all'uso estemporaneo delle scale modali, è il segno di una originalità creativa non particolarmente precoce, ma con pochi confronti nella storia. E quindi questo libro è non soltanto un invito a riascoltare Debussy, ma anche a riflettere sulle spinte contrastanti del secolo scorso. E a questo punto... Il confettino. Un libro musicale, Sette note d'argento, di Lia Levi, pubblicato da Battello Vapore, 238 pagine, 8 euro, illustrato da Donata Pizzoni. È un libro in due tempi e una coda sulle esperienze di due ragazzine che studiano nella sezione musicale di una scuola media romana, che ha dato vita a un'orchestra che sarà chiamata a partecipare a un importante concorso, la preparazione al quale diventa la chiave per far capire quanto sia importante il gioco di squadra e la fiducia reciproca. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto un libro di Daniel Goleman, che è stato docente universitario e collaboratore scientifico del New York Times. Il libro si intitola La forza del bene, il messaggio del Dalai Lama per una nuova visione del mondo. È pubblicato da Rizzoli, 282 pagine, 19 euro, ed è tradotto da Daniele Didero. Questa non è un'antologia del Dalai Lama, ma un vero e proprio viaggio nell'insegnamento di quell'autorità religiosa attraverso alcuni temi che hanno dominato il suo magistero. Per restare in tema di serenità, vi segnalo di Luciano De Crescenzo Stammi felice, filosofia per vivere relativamente bene, pubblicato da Mondadori, 122 pagine, 15 euro. Qui l'ingegnere scrittore ci guida attraverso grandi figure del pensiero che sono riunite in un convito a individuare qualche margine per diventare sereni. E con questo ringrazio Luca Cremonese, Guido Scotti in redazione, Paolo Corleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.